Oggi tutto va così. Siamo in una slot machine, dove il caso sempre a vincere. Puoi far pace con gli dèi, ma ci riesci tu coi tuoi. Dimmi un po' a farti comprendere. E ti parlo come amico, perché so che sai che dico. Siamo sulla stessa strada, che anche se non ti conosco, so che sei un tipo a posto e spero che tu ovunque vada cammini nel sole. Walking away with me, e bruci le suole anche se non c'è direzione, ma profumo di viole c'è. Tu cammina nel sole, cammina nel sole. Sotto le costellazioni siamo anime a milioni, che a pensarci c'è da perdersi. Tutti con la propria storia, un graffio dentro alla memoria, tutti sulla stessa strada. Ogni tanto c'è una sosta alla